Racconta il tuo viaggio dalla Russia a Nuoro. Prima bisogna raccontare della decisione. Ho conosciuto mio marito e poi abbiamo deciso che era più facile per me trasferire a Nuoro che a lui a Mosca. E quindi poi eravamo in attesa della nostra figlia Alberta e quindi ha velocizzato i processi, diciamo. E quindi da Mosca a dicembre del 2009 sono trasferita qua. Primo impatto, già, cioè, sono stata prima a Nuoro, non la conoscete così bene dalla prima vista, però quando sono trasferita subito ho conosciuto la mia amica per puro caso, che anche lei è lituana, parla benissimo il russo perché abbiamo la stessa età e lei è nata nel sovietico, quindi studiava a scuola russa. Anche lei proprio stesso dicembre 2009 trasferita e abbiamo iniziato a conoscere la città un po' insieme perché chiedere a mio marito dove andare dalla parrucchiera, ma un po' lo potevo anche fare però. E quindi abbiamo, perché anche le cose pratiche, oltre alle cose culturali e sociali, abbiamo iniziato a imparare insieme con chitarra, eravamo sempre in contatto dove vai a fare la spesa, dove possiamo andare. Era così, perché in ogni caso un conto di trasferire dalla città in un'altra città, essendo lo stesso paese, stessa lingua, però trasferire in un altro paese con cultura completamente diversa, senza conoscere la lingua, che la lingua è la cosa fondamentale, prima. E poi le persone che ti circondano, le persone ce l'aveva la mia suocera, le mie cognate che erano pronte ad aiutarmi, però non parlavano inglese, quindi io subito ho dovuto buttarmi a studiare italiano e diciamo che andava abbastanza veloce perché poi mi dicono che quando impari una lingua, se tu butti in quell'ambiente, te lo impari veloce. Qui è proprio perfetto perché nessuno non parlava inglese, quindi c'erano tanti stimoli. E poi mi sempre piaceva la lingua italiana, lavoravo a Mosca in una grande azienda che collaborava tanto con l'Italia e quindi un po' le cose culturali le conoscevo, quindi per me non era una novità che poi all'una tutto chiudono, apre alle 5, siesta, bisogna riposare, perché sono le cose, quando tu trasferisci da un paese all'altro, o tu assimili e accetti tutte le tradizioni e il modo di vivere del paese in cui vivi, oppure sarai in una grande difficoltà. Quindi ognuno ha il suo proprio modo di vivere e quindi, però, gli italiani sono molto simpatici tutti quanti, quindi barbaricini soprattutto. E poi quando mi trovavo in difficoltà per strada, dovevo chiedere qualcosa con queste due parole che conoscevo al momento in italiano, c'erano sempre le persone che mi aiutavano, quindi diciamo che è stato abbastanza liscio il trasferimento. Qual è stato il primo caso in cui ho incontrato una grande differenza culturale tra la Russia e Nuoro? Allora, il culto del cibo in tutta l'Italia, Nuoro, diciamo che è fondamentale, perché qui si gira intorno a pranzo e cena, tutti i discorsi, ma non solo quando raccolgono le famiglie per pranzo o cena o alle feste, perché mio marito ha una grande famiglia, sono sei fratelli, nipoti, eccetera, eccetera, zii. Noi siamo pochi in famiglia, quindi noi non avevamo mai questa tavolata di gente che quando iniziano a parlare tutti sembra che sono in una via con tante persone perché non si sente niente. Però questi incontri a tavola mangiando il cibo buono ti portano alle chiacchierate belle e poi alla fine ti rimangono questi ricordi delle feste, che adesso non ci sono più perché qualcuno è partito, qualcuno non c'è più e quindi ci c'è la mancanza, c'è la nostalgia di questi momenti veramente adesso. Sì, così. Adesso mi è venuta la tristezza. Raccontaci com'è stato trovare lavoro qui a Nuoro. Allora, io ho due lauree, sono laureata in scienze motorie e in sociologia. Ho avuto diverse esperienze lavorative in Russia, ho lavorato in fitness club come istruttore di aqua fitness. Poi quando sono laureata in sociologia lavoravo in una grossa azienda che sponsorizzava la squadra olimpica russa con abbigliamento sportivo e seguivo marketing. Contratti, eventi, avevamo tanti contratti anche con le federazioni sportive russe, quindi era un bel lavoro per la quale sono andate anche a lavorare ad Olimpiadi e anche a Torino, dove ho iniziato a conoscere la cultura italiana. Torino è una bellissima città, tra l'altro. Poi quando sono trasferita qua era chiaro che nel campo di sociologia sarà difficile, soprattutto senza buona conoscenza della lingua, trovare il lavoro, però a Nuoro c'è la piscina e quindi, visto che sono anche campionessa del mondo di nuoto sincronizzato, e nuoto sincronizzato non c'era a Nuoro, quindi è nata questa idea di fondare una piccola squadra e ho iniziato nel 2013 e con alti e bassi ci siamo ancora perché come a tutte le attività sportive, Covid ha tagliato un bel po' di allievi e stiamo ancora riprendendo tutti da questa situazione. E quindi adesso faccio anche lezioni di hydrobike in piscina e seguo queste bambine che fanno sincro. Dici una cosa positiva e una cosa negativa sul Nuoro. Un beneficio assoluto è che quando la città è piccola non spendi tanto tempo nel traffico, quindi cioè, i miei figli fanno diversi sport e io riesco di pomeriggio a portare tutti e due, poi andare a lavorare, a allenare la mia squadra e poi uscendo a correre e riprendere tutti quanti. In una città quella, mia figlia per esempio faceva sempre due sport, faceva sia basket che softball, che in una città grande non sarebbe possibile perché solo per spostamenti ci vuole il tempo. Quindi questo è il beneficio. Poi la qualità del cibo qui è assolutamente migliore di tutti quei posti che ho visto. La frutta e verdura e la carne chilometro zero, questo non ha prezzo assolutamente. Poi l'aria è fresca. Abbiamo una bellissima pianetta dove vado a camminare quando c'è tempo. Questi profumi veramente tirano su. Poi la montagna è bellissima. E poi la gente che ti circonda, comunque nuoresi sono cordiali, sorridenti. Poi la cosa che mi colpiva da subito è quando è nata Alberta, uscivo con passeggino e tutti vedendo la bambina sorridevano, perché qui a prescindere i bambini sono un dono prezioso della vita. Per tutti, e quindi anche io la stessa cosa quando vedo un bel bambino sorrido, dico ciao, anche se non conosco chi sono. E quando vado con questa cosa a Mosca, lì ti guardano un po' sospettosi, dicono Sara, ce la conosciamo. Queste sono le cose belle, quelle piccole cose che ti fanno la vita, perché la vita consiste delle cose piccole. Allora, a Nuoro a me mi manca la vita culturale, perché io sono appassionata della musica lirica, a Mosca andavo sempre ai concerti al conservatorio, a vedere i balletti, a vedere al teatro gli spettacoli drammatici. Qui, il mio parere è che prima c'erano più cose, anche qui dove ci troviamo adesso, ad Elisea, c'era sempre il programma ricco di spettacoli, quindi si poteva un po' riempire la vita anche di queste cose. Adesso vedo molto meno. Si può andare sempre a Cagliari, però questo bisogna organizzarsi perché non è che dietro l'angolo Cagliari. E quindi questa parte mi manca. Poi bel cortile per bambini con la possibilità di arrampicarsi, con un bel scivolo, perché questi piccoli quartieretti che ci hanno costruito negli ultimi anni non li trovo così divertenti per bambini. E poi sono per bambini molto piccoli e poi appena anche per bambini 8, 9, 10 anni non ci sono i posti dove possono giocare tranquillamente e liberamente. Queste cose direi che mancano. E poi una passerella bella per le bici, perché anche questa non è molto utile, quella che è stata costruita. Ci sono posti e punti dove devi attraversare in un punto della strada un po' pericolosa. Quindi io, mio figlio, non farei fare questa strada. Quindi queste cose che mancano, sì.